porta lo spirito acre freddo dell'invidia, la giornata non ha pensieri, non ha inverno, non ha stagioni, per te è estate, come dire in autunno sono andato con i grappoli, con le uve, con le foglie, con la vendemmia. Non sono preparato, mi fermo più volte a guardarti con gli occhi di ragazzo invecchiato. Valerie, Valerie, Valerie, i tuoi occhiali alla Minnelli, il rimmel è riuscito. Eccoci qua. Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi, 26 dicembre del 2018. Andiamo leggermente prima rispetto alle canoniche ore 21, approfittando dell'assenza della trasmissione che in genere mi precede. Ed e finiremo anche leggermente prima, intorno alle 22. 0649 1750, contatto telefonico www.ondarossa.info per connettersi attraverso lo streaming e quindi facendolo attraverso un computer. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Domani sulla pagina Facebook prove tecniche di trasmissione /disorder andrà come al solito la playlist e il podcast, cosa che accadrà puntualmente anche sul sito della radio. Oggi non andrà in onda a 25 o'clock, quindi dopo la fine di questo spazio il compagno automatico vi terrà compagnia nelle ore successive. Andiamo a salutare Alessandra qui a Roma, un grosso saluto anche a Ilenia, a Maia dalla Sardegna, Francesco dalle Marche e quelli che pian piano, se ne avranno voglia e soprattutto se possono, tenendo conto della giornata particolare, se avranno voglia di sintonizzarsi e di sentirsi un po' la solita selezione industrial dark ambient and noise del sottoscritto. Una selezione che inizia con l'ultimo lavoro per il belga Akamasots. Lui è famoso anche come Herman Claffels, una vecchia militanza negli Hybrids, progetto storico di ESO industriale. Ultimo lavoro si chiama I Believe, che però è un disco arricchito anche da un secondo CD completamente diverso, un CD di estrazione gotica e dark ambient, che si chiama Aller Heiligen Blood, diviso in 8 capitoli. Noi ci ascoltiamo Chapter Number 2, e quindi il secondo capitolo. artista assai eclettico, il nostro Herman Klaffholz. Ne è testimonianza diretta sia la questi due CD completamente diversi di questo I Believe stesso, che si sviluppa su tematiche etniche, sul breakbeat, sulla jungle e sull'industrial. Questo CD, che è esistente soltanto nella cosiddetta versione deluxe, si chiama Aller Allegen Blood, è un disco, come ho già detto, invece imperniato su sonorità molto più gotiche e rarefatte, come abbiamo anche apprezzato attraverso Chapter Number 2. Un saluto di nuovo a Alessandra, una delle poche coraggiose insieme a Mai al momento a sintonizzarsi anche oggi 26 dicembre 2018 qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dopo Akamasots andiamo verso un calibro veramente ed effettivamente storico, che risponde al nome di Current 93, alle cui sorti è legato ovviamente il destino anche di David Tibet, personaggio che credo i più affezionati non abbia bisogno di alcuna presentazione. L'ultimo album si chiama The Light Is Leaving Us All, una delle migliori uscite di questo 2018 ormai agli sgoccioli. Album che si sviluppa sul neo folk, ma poi anche delle virate sul psycho rock, e ovviamente con anche degli aspetti più vicini a tematiche più sperimentali. Questa sera le ultime tre tracce che lo vanno a concludere, ossia The Kettle's Horn, Fair Weather e The Milkmaid Sings. Witches in every nook, lay down for your appointed time, and hear the bird song singing, and see the bird sing, bring you to me, and sing me your name. prophet, prophetess, and a thousand witches rise for you in the red house. From the red barn they sing, and the birds are surely singing. In the night the children sing, in the market square a girl is dead, and by the fair boy is dead, and the birds slowly singing, but my head is writing in me and through me, and in my head the plain is burning. Softly they sing the birds that flame in the tree. If you meet me at the red bar, in the straightway hall, in the golden draw, desire and the horses are on fire. The watchtowers arise from sand, bring in storms, in and out. Death chariots arise as bone of stars, for the light is leaving us all. So mind your slight back, small and slack. The small birds float eyeless in the foam, as the light is leaving us all. And I hear bell ring boy and immortal rain, and the light is leaving us all. On the flat planet, the light stands still. Canes of throat and breathes in forehead. The sweeper sweeps on, the road is cleared. Cleanly the cars pass by. The light is leaving you all. By the telescope mountains all fall down. Telescope magicians all fall down. At the seal of the real all fall down. And light your candle, little dreamer, and all fall down, and the birds are sweetly singing, buoy and sound in the final change. Shepherd, your flock is close to edge, and the fragile birds soar and sing. So sweetly, softly into the clouds, they burst the wind with their gorgeous wings. In the red church the cockcrow rises, the ranks and the bars and the high walls are made quite of bright light. Quite gone and late, the light leaves us all. So call, good moon, and all full soon. And the light is leaving you all. At the end of your face, the focus is shot. The light is leaving you all by the sundered sun, and the chill. Children and birds are softly singing, and the stars are singing, the cattle are lowing, and the light leaving you all. In evening when the sky is red, fair weather, Matthew 16:2. Then 3, morning, the sky is red. You see the signs in the stars, but you cannot read the signs in the stars. And if a man blinds a man, his eye is blinded. If a man breaks the bone of another man, his bone is broken. If a man knocks out the tooth of another man, his tooth is knocked out. Your name is not at all the same as when you dreamt in bed. Your name is quiet and still whilst you move at night. Your name is singing like the sweet birds as the light is leaving you all. Score the witch above the breath that falls from that mouse. The sleep falls over the stars, softly knocks the policeman at your door. E ci dice ha fatto uno scherzetto, ma comunque la traccia stava andando verso il termine. Era Current 93, da questo suo ultimo lavoro con la splendida voce di David Tibbett, un Tibbett particolarmente attivo quest'anno. Ricordiamo la collaborazione preziosa con gli Zoo qui a Roma, che ha preso il nome di Zoo 93 ovviamente. Quindi andiamo avanti, intanto già è partito il consueto omaggio alla scena libanese che vede il protagonista come selezionatore Raffaele Pezzella, che salutiamo. Si chiama ovviamente Lebanon Music Survey, Anthology of Electroacoustic Lebanese Music, la scena del Libano così misteriosa che è stata resa visibile da Raffaele Pezzella e dal suo incessabile lavoro. La traccia che è già partita è di questo progetto che porta il nome di $3 million, presumibilmente $3 milioni, non so se sembra spagnolo obiettivamente più che libanese. Ciò che è sicuro è che la traccia si chiama John Black.